Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1834. Nuovo tentativo di insurrezione tra Savoia e Genova, ma è un fallimento. Garibaldi e Mazzini in fuga. Dopo quasi quattro secoli, Maria Cristina di Borbone abolisce l'Inquisizione spagnola. Drammatico incendio a Londra, brucia completamente il palazzo del Parlamento. Muore il grande poeta inglese Samuel Taylor Coleridge. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. La giovine Italia si è resa protagonista di un altro tentativo di insurrezione. Fallito. Per gli Stati Italiani è un'organizzazione terroristica, per molti italiani una fonte di speranza. Speranza delusa finora se le cose andranno come sono andate tra la Savoia e Genova. Un mix di contrasti ideologici tra gli esuli, di ritardi, cattiva organizzazione e l'ottimo sistema di spionaggio sabaudo hanno portato al fallimento del tentativo della giovine Italia. I preparativi, stando alla polizia ma anche a fonti dei rivoltosi, sono iniziati in ottobre. Mazzini progettava di raccogliere qualche migliaio di uomini ai confini svizzeri e francese della Savoia e di invaderla, mentre a Genova un gruppo guidato da Giuseppe Garibaldi avrebbe sollevato il popolo. La parte militare dell'operazione è stata affidata al generale Ramorino, ma i ritardi hanno generato defezioni dovute anche al contrasto durissimo tra Mazzini e un altro esule, Filippo Buonarroti, che ha dato anzi ordine ai suoi confratelli carbonari di ostacolare i rivoltosi. L'insurrezione, se si può chiamarla tale, è iniziata il 1 febbraio e si è conclusa intorno al 4. Una parte della truppa mazziniana è stata bloccata direttamente dagli svizzeri, un'altra è riuscita a malapena a conquistare una stazione doganale in Savoia. Giuseppe Garibaldi, per conto suo, doveva far insorgere gli uomini delle forze navali di Genova, ma nulla si è mosso e l'uomo ha riparato in Francia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Speranze per i liberali sembrano arrivare dalla Spagna, dove Maria Cristina delle Due Sicilie, reggente invece della figlia Isabella di appena 3 anni, apre alle riforme. È sua infatti la decisione di abolire, dopo poco meno di 4 secoli, l'Inquisizione spagnola. Questo non sembra che la possa aiutare nella lotta che si sta scatenando per il trono. Carlo, fratello del defunto re e quindi cognato di Maria Cristina, sostiene che l'ascesa al trono di Isabella è illegittima. Un drammatico incendio a Londra ha letteralmente distrutto il palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico. Tutto è iniziato quando si è deciso di bruciare i Tolly Sticks, pezzettini di legno che venivano usati fino a qualche anno fa per tenere conto di debiti, crediti e tasse. Si è deciso di farlo nella fornace sotterranea che serve a riscaldare tutto il palazzo, ma lo si è fatto troppo in fretta e le cappe si sono surriscaldate, dando l'avvio all'incendio. Restiamo in Inghilterra. Considerato tra i fondatori del romanticismo inglese, è scomparso il poeta Samuel Taylor Coleridge. Le sue opere più famose sono senza dubbio le ballate liriche, composte con William Wordsworth. Di queste, la più celebre è senza dubbio la ballata del vecchio marinaio. È tutto sul nostro sito, andate a scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento là o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.